i campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 3 gennaio, il sole in regione è sorto alle 7.50 e tramonterà alle 16.34, la luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno e buon anno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Più ombre che luci nel bilancio dell'agricoltura nel 2020 che oggi ci traccia il direttore della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, Danilo Merz. Ad un andamento delle produzioni in campo più che sufficiente si sono contrapposte le difficoltà del mercato che hanno creato nuovi punti di crisi in un panorama già in difficoltà. Secondo Merz, una possibile via d'uscita è quella della creazione delle filiere regionali per superare speculazioni ed impasse che condizionano il mercato agricolo. Il corsivo di Anas Costantini oggi ci parla di frasche, quei punti di ristoro e spaccio agricolo che presidiavano il territorio, offrendo prodotti a chilometro zero ancora prima che se ne sentisse l'esigenza. Ce n'è ancora qualcuna, Enos l'ha scovata e ce la racconta in una sua esperienza enologica recente. Nella rubrica delle normative Marco Malison ci parla dello scampato pericolo di una nuova etichettatura dei prodotti agroalimentari che alcuni paesi dell'Unione Europea hanno tentato di introdurre con un blitz finito malamente. Etichettatura a punti e colori che avrebbe tenuto conto solo delle percentuali degli ingredienti, tralasciando provenienza e tradizione. Il professore Raffaele Testolin, nello spazio che dedichiamo alla frutticoltura, oggi fa il punto su susino e susine, frutti cui i corregionali sono particolarmente legati, soprattutto nelle varietà autoctone, non fosse altro per la diversità di grappe che ci garantiscono. E poi il susino è pianta rustica, generosa, che ben sopporta le ingiurie delle potature umane. Forse a qualcuno cadrà un mito, quello del baffone della birra Moretti, immagine da sempre legata ad un presunto contadino friulano che ben sintetizzava il connubio della gente di questa terra con la birra. Non sembra sia andata proprio così, dato che sulla scena irrompe un altro contadino, questa volta austriaco, come ci racconta il professor Stefano Bujatti, che all'Ateneo di Udine insegna tecnologia della birra. La comparazione dei mercati agricoli tra il 2019 e il 2020 di Amos D'Antoni, le previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana concludono questa prima puntata dell'anno. Oggi Vita nei Campi fa un altro bilancio dell'annata agraria appena trascorsa con Danilo Merz, che è il direttore di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Coldiretti è un sindacato, quindi una struttura vicina alla gente, che ha il polso della situazione e anche dell'umore dei suoi iscritti. Danilo Merz, come sono stati vissuti questi mesi di pandemia tra la gente dei campi? Per quanto riguarda il lavoro, l'agricoltura non si è mai fermata, ha sempre continuato a lavorare e a lavorare per i cittadini, per produrre il cibo che serve ai cittadini. Dal punto di vista, come posso dire, psicologico, è stato un anno difficile, come per tutte le altre categorie, come per tutti i cittadini, perché insomma fare i conti sempre con questa possibilità di contagio non è semplice lavorare. Abbiamo dovuto lavorare molto per avere deroghe anche rispetto ai vivai e cose di questo genere. Ci sono delle categorie come gli agriturismi che purtroppo si sono dovuti fermare. La cosa è abbastanza difficile come per tutti. Un anno horribilis, come si suol dire in questi giorni, il 2020 anche per l'agricoltura, quindi? Sì, possiamo dirlo. Per quanto riguarda le produzioni, no, è stato un anno molto buono per le produzioni. Certo è che poi le produzioni fanno anche i conti con il mercato e il mercato è stato molto difficile. Crisi strutturali che magari si sono chiuse, quante se ne sono aperte? A dire la verità ci sono crisi cicliche, come ad esempio quella della carne di maiale. Stiamo vivendo un momento molto difficile per gli allevamenti di suini, perché il prezzo è sceso di molto, è calato del 50% circa da inizio pandemia adesso, e questo è dovuto al fatto che molte industrie continuano ad importare dall'estero, nonostante ci sia anche il rischio della peste suina africana, perché comunque fino a febbraio, pur essendo in vigore l'etichettatura anche per quanto riguarda i trasformati, i salumi e così via, c'è la possibilità di riuscire a eliminare le scorte che si hanno in magazzino, e quindi abbiamo l'impressione che molte industrie si nascondano dietro a questa possibilità e continuano ad importare. Come sta andando per gli allevatori in Friuli Venezia Giulia? Per gli allevatori è un momento abbastanza difficile, perché si lavora solo con la grande distribuzione, tutti gli altri canali, il canale Eureka in primis, sono ovviamente chiusi e quindi insomma i prezzi non sono il massimo. Bisogna continuare a tenere duro per sperare in momenti più favorevoli. Possiamo consolarci almeno con il settore del vino? Anche il settore del vino purtroppo lavora soprattutto all'80% col canale Eureka e quindi anche quello sta vivendo momenti difficili. Insomma, le scorte all'interno delle cantine sono alte e quindi bisognerà riuscire a resistere anche lì. Se Danilo Merz avesse la bacchetta magica, quale primo problema risolverebbe nel 2021? Sarebbe la costruzione delle filiere, che purtroppo qui in Friuli Venezia Giulia non sono molto presenti, e questa è una necessità, perché il valore aggiunto si trova tutto alla fine della filiera, e riuscire a chiuderla all'interno del mondo agricolo sarebbe la panacea di tutti i mali. Quando ancora non esistevano gli agriturismo, esistevano già le frasche, punti di ristoro e convivio del territorio agrario, dove era possibile assaggiare a chilometro men che zero le produzioni del vigneto, degli animali della fattoria e dell'orto. Qualche frasca resiste ancora all'assalto della burocrazia e presidia ancora quello che una volta veniva chiamato il contado. Enos Costantini ne ha ritrovata una, spunto oggi di riflessioni tra felicità umana e PIL. Da anni, direi almeno 30, non passavo in una certa borgata della pedemontana orientale e avevo dimenticato quella buona frasca che saltuariamente frequentavo. Essendomi nuovamente avventurato in quei paraggi, vidi con mia sorpresa che era ancora viva, vegeta e frequentata. Tre i vini, Blanc, cioè Tokai, Neri, cioè Merlot e Verduzzo. Il mondo si è fermato, anche nella burocrazia. Infatti, ora come allora, questa tipologia di vendita non è consentito offrire nulla di solido da immettere nell'apparato gastroenterico, neppure un uovo duro, neppure una fetta di polente rustide. In compenso, la frasca vende frutta e verdura di propria produzione, e così ho rimpinguato la riserva di fagioli che quest'anno la mia imperizia ortolana non mi ha consentito di completare. Volli portare a casa un po' di quel vino e, non avendo con me adatti recipienti, il proprietario lo travasò in bottiglie di acqua minerale che teneva all'uopo in cantina. Voi direte che è plastica. Sì, ma almeno quella plastica ha avuto una seconda funzione prima di andare, come si spera, al costoso riciclaggio. Il prezzo del vino fu vergognosamente basso. Dopo 4 Verduzzi e 1 Tokai, ma forse i Tokai erano 2, non temendo il vino ma il palloncino, rincasai per viottoli di campagna, ignoti perfino i motocrossisti, e approdai felicemente al focolare domestico. Sottolineo felicemente. Non so quanto contribuiscano al PIL queste attività economiche, che pur danno da vivere una famiglia, creano indotto, vivificano la società locale tonificandone l'economia, mantengono prezzi popolari, formano ben pochi gas a effetto serra e fanno felici gli avventori. Ma, come disse qualcuno più in alto di me, il PIL non misura la felicità. Mentre la Commissione europea trattava con il Regno Unito l'accordo commerciale sulla Brexit, all'interno delle istituzioni europee era in corso un'altra partita importante. Ce ne parla Marco Malison, responsabile tecnico economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Più volte in questa trasmissione abbiamo parlato dell'importanza dell'etichettatura dei prodotti alimentari. Negli ultimi anni la legislazione nazionale ha fatto molti passi avanti, anche perché il consumatore è sempre più attento a cosa mette nel carrello della spesa. Al contrario, la legislazione europea è ancora molto indietro su questi temi e spesso si è dimostrata più attenta agli interessi della grande industria alimentare piuttosto che alla tutela dei produttori agricoli. L'ultimo episodio è di pochi giorni fa. Che cosa è successo? La Germania sperava di concludere il semestre di presidenza europea con un accordo sul nuovo sistema di etichettatura degli alimenti. E così il presidente del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura ha tentato di accelerare il negoziato mettendo al voto un documento che avrebbe portato l'adozione della cosiddetta etichetta Nutri-Score, in pratica una sorta di pagella con 5 lettere A, B, C, D, E, accompagnata da una scala cromatica dal verde al rosso, classificando la salubrità dei prodotti in base alla loro composizione chimica. E com'è andata la votazione? Fortunatamente la proposta non è passata grazie alla resistenza dell'Italia, che è riuscita a portare dalla sua parte anche Grecia e Repubblica Ceca, ma ci sono altri paesi come Cipro, Ungheria, Lettonia e Romania che, seppure in modo più blando, si oppongono al Nutri-Score franco-tedesco. Invece i sostenitori, insieme a Francia e Germania, sono Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Cosa significherebbe questo tipo di etichettatura per l'agroalimentare nostrano? Allora, una classifica basata esclusivamente sul tenore di zuccheri, grassi e sale, senza tener conto dell'origine della materia prima, del tipo di trasformazione, delle tradizioni, eccetera, penalizzerebbe fortemente l'agroalimentare italiano. Così i prodotti tipici come l'olio di oliva, il parmigiano reggiano o il nostro prosciutto di San Daniele si troverebbero con un Nutri-Score uguale e in alcuni casi persino peggiore rispetto a prodotti industriali solo apparentemente più salubri, ma contenenti edulcoranti sintetici al posto di zuccheri naturali, proteine da fonti più disparate, grassi idrogenati, decolorati, deodorati, eccetera. Insomma, scampato pericolo? Per ora sì, ma è solo un primo round di un match ancora molto lungo e difficile, perché la lobby dell'agroindustria sappiamo che è molto forte. Nel frattempo è importante continuare un'azione di informazione in modo che il consumatore impari a leggere l'etichetta, soprattutto riguardo all'origine della materia prima. Ma l'invito principale è quello di consumare prodotto locale, frutta e verdura di stagione, frequentare i mercati rionali e le piccole botteghe, quando possibile acquistare direttamente dal produttore. Un piccolo ma fondamentale aiuto anche all'agricoltura della nostra regione. Frutto solo per certi versi umile, con tantissime varianti sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Oggi il professor Raffaele Testolin, già docente di frutticoltura all'Università di Udine, ci parla delle susine, di come i corregionali siano ancora affezionati alle varietà autoctone. Non sarà perché garantiscono la qualità e diversità delle grappe nostrane? E poi un cenno anche alla pianta rustica e rassegnata a sopportare ogni tipo di potatura. Mi piacciono i friulani perché non cedono facilmente alle lusinghe dei vivaisti e sono invece attaccati alle loro tradizioni. Tutti al mondo vogliono le susine moderne, belle, grosse, di tutti i colori. Loro no. Loro vogliono i siespis, susine piccole di cui nessun vivaista venderebbe piante, a parte un mio ex studente che si è immolato sull'altare delle vecchie varietà e moltiplica non senza difficoltà varietà come la siespa di Clastra, la Prissica, la Santana di Trampus o lo Zimber Bianco. Eppure queste varietà hanno un loro fascino, non c'è che dire. Il distillato che si produce con varietà come la Prissica potrebbe sbaragliare tranquillamente tanti concorrenti blasonati di qua e di là del confine sloveno, che dopo aver ceduto alle sirene della modernità distillano quello che passa il convento, pardon, il mercato. Lo Slivovitz di Cabia o delle valli del Natisone, prodotto con susine locali, ha fatto la storia di questa bevanda, alimentando racconti esilaranti di distillazioni abusive. Alle persone più anziane vengono le lacrime agli occhi ricordando le lunghe sere invernali, quando raccolti nelle stalle a scaldarsi ascoltavano storie di contrabbando, mentre le giovani cercavano qualche angolo meno presidiato per scambiare un'effusione con il giovanotto della contrada vicina. Fatta questa digressione, veniamo al siespis. La coltivazione è facile, si pianta e poi con gli anni si cerca di dare una forma aggraziata all'albero. Questione di estetica, perché anche il susino è una pianta che perdona qualsiasi errore di potatura senza aversene a male. Ne approfitto allora per raccomandare un po' di grazia, visto che sbagli tecnici non se ne fanno comunque si poti. Alberi con rami moncati malamente ed esteticamente orrendi non aiutano a rendere grazioso un giardino, e anche nei giardini un po' di landscape estetico non guasta. Ricordo per finire che il susino è pianta rustica, ma qualche malattia ce l'ha anche lui. E se per caso la prende, rischia di deperire e di andare incontro ad una lenta morte. Salè d'Estin, dice il mio amico Renato Di Nimis, si ripianta. Il professor Stefano Bujati, che all'Università di Udine insegna tecnologia della birra, oggi ci racconta la vera storia del baffone della birra Moretti, la cui immagine campeggiava sullo stabilimento udinese di Viale Venezia e su tutte le etichette. Una storia per certi versi inedita, che al presunto contadino friulano che avrebbe prestato la sua immagine ne contrappone un altro, questa volta austriaco, vero detentore del diritto d'immagine. La vera storia del baffone della Moretti ci porta in Tirolo e non al Boschetti di Tricesimo, dove Lao Menazzi Moretti disse di aver incontrato questo signore dai lunghi baffi da cui fu ispirato e che lui stesso fotografò, dando origine alla famosa immagine pubblicitaria, icona ormai internazionale. Al suo fantasioso racconto aggiunse anche il particolare che quel signore non volle nulla per l'immagine, ma solo che gli venisse pagato da bere. Simpatica leggenda, ma, come tutte le leggende, frutto della fantasia. Ci porta in Tirolo perché? Perché lì il baffone fu immortalato dalla fotografa tedesca Erika Grotsch-Machtenberger nel cortile di una locanda vicino a Innsbruck nell'aprile del 1939, per l'esattezza era il 2 aprile, Domenica delle Palme. Ma fu soltanto nel 1956 che la Grotte, venendo in Italia per trascorrere le vacanze e passato il valico di Tarvisio, vide i cartelloni pubblicitari della Moretti che ritraevano il signore coi baffi da lei fotografato molti anni prima. Sebbene si trattasse di un disegno, questo riproduceva il suo scatto originale, il signore dai lunghi baffi, il caratteristico cappello, la stessa casa e perfino lo stesso albero sullo sfondo della scena. Il problema è che l'utilizzo della fotografia era avvenuto senza la sua autorizzazione e per questo la Grotte si rivolge ad un avvocato per far valere il proprio diritto di autrice. Siamo nel dicembre del 1956, la Moretti, con una lettera firmata dallo stesso Lao Menazzi, accoglie le osservazioni della Grotte e le riconosce il diritto in quanto autrice della fotografia che ha dato origine all'immagine del baffone. Baffone che tra l'altro, ricordiamo, si chiamava Robert Schreiner e non era certamente friulano. È facile comprendere le ragioni per cui la Moretti non ha mai voluto pubblicamente riconoscere la vera origine del bevitore e della birra che tiene in mano. Dovendo proporre al mercato una birra friulana, il bevitore non poteva che essere friulano, così come la birra che stava per sorseggiare. Ma dove aveva visto questa foto Lao Menazzi Moretti? Nei primi anni 50, in visita a una fiera della birra in Germania, fu attratto da alcune immagini pubblicitarie e rimase colpito in particolare da questa, probabilmente pubblicata su un calendario. Questa vicenda è raccontata dalla stessa fotografa tedesca in un libro dell'84, dove pubblicò la sua fotografia originale e un cartellone pubblicitario della Moretti, da lei ripreso nel 56, quando scese appunto in Italia. Oggi, a tanti anni da quando fu scattata la foto e dalla disputa legale fra la Grotte e la Moretti, la verità storica suffragata da fatti e documenti è emersa. E in questo grande merito va riconosciuto all'architetto Ennio Puntin Gognan, che era amico della Erika Grotte e che per anni si è battuto affinché questa verità venisse a galla. Dobbiamo riconoscere che ciò ha potuto avvenire anche grazie all'associazione Cervignano Nostra, che alcuni anni fa, nel libro che commemora l'architetto, è presente in appendice la verità storica sul mitico baffone. Robert Schreiner era un contadino tirolese di un piccolo villaggio nei pressi di Innsbruck, deceduto nel 1951 e padre di ben 13 figli, e non ha mai saputo quanto famosa sia diventata la sua immagine nel mondo. E con Amos D'Antoni, la seconda puntata delle comparazioni dei prezzi agricoli del 2020 con il 2019, comparazione che ci fa capire come certi settori siano in sofferenza e altri in controtendenza. Questa prima domenica del 2021, oltre ad augurare che l'anno porti a tutti salute, serenità e una prospettiva economica che debelli la crisi del Covid, concludiamo l'andamento di alcuni prodotti agricoli confrontando i prezzi tra il 2019 e il 2020. Nel settore dei prodotti ortofrutticoli la situazione non è stata delle migliori, si sono avuti cali di quotazioni per l'insalata gentile, i cavoli e i pomodori, mentre i peperoni, le patate mele golden, arance e clementine sono aumentate di prezzo, stabili le quotazioni per i radicchi rossotondo, le melanzane e i kiwi. Nel comparto ittico, attraverso un'analisi comparativa, è stato possibile valutare che gli acquisti sono cresciuti e i prezzi nel 2020 hanno subito un lieve incremento rispetto a quelli del 2019 per i branzini e le seppie, mentre si sono avute quotazioni in calo per rombi, canoce, passere, calamari, calamaretti, sogliole e ombrine, prezzi equiparati a quelli delle capesante e dei latterini. Per quanto riguarda la sezione dei foraggi, i prezzi non hanno registrato variazioni sostanziali. Si è avuto un lieve calo per la paglia e deboli aumenti per l'erba medica e il fieno maggengo di pianura. Nel legname, la tormenta Vaia del 2019 ha avuto effetti negativi sia dal punto di vista ambientale che delle quotazioni. dove nel 2020 hanno perso una trentina di centesimi il quintale, causando l'impoverimento delle comunità locali. La produzione del prosciutto di San Daniele nel 2019 è stata di circa 2 milioni e 600 mila cosce avviate alla lavorazione, pare la stessa quantità anche l'anno scorso, e i prezzi per quelli con l'osso e i dissossati sono rimasti invariati. Infine, un quadro diversificato si è avuto nel mercato avicunicolo, molto richieste le oche che sono aumentate di circa 70-80 centesimi il chilo. Positivo anche il mercato dei polli e delle uova. Hanno sofferto invece per un eccesso di offerte rispetto al 2019 le quotazioni dei tacchini, faraone, anatra e conigli. Analizzando l'andamento agricolo dell'annata agraria appena conclusa, è stato rilevato che il 2020 ha segnato un leggero incremento del valore dei prodotti nel carrello della spesa, ma non ha avuto di pari passo un aumento al produttore agricolo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo diamo uno sguardo al tempo che farà la settimana entrante. Una profonda e vasta depressione ormai da parecchi giorni interessa quasi tutta l'Europa centro-occidentale e quindi anche la nostra regione. Dopo il passaggio ieri dell'ennesimo fronte, col suo carico di neve per la zona montana anche a bassa quota, permarranno correnti relativamente umide in quota, piuttosto deboli, che anche domani manterranno una certa nuvolosità, alternata a schiarite. Sarà comunque possibile qualche locale debole precipitazione. Sulla costa soffierà borino richiamato da una depressione al suolo tra il Ligure e il Tirreno. Le temperature saranno in lieve calo, specie nei valori minimi. Martedì trascorrerà con tempo incerto, per lo più nuvoloso, con qualche precipitazione più probabile della sera, quando la bora si intensificherà sulla costa, temperature in ulteriore lieve calo. Mercoledì, giorno dell'Epifania, una depressione dovrebbe risalire la penisola italiana, determinando una fase moderatamente perturbata anche per la nostra regione, che vedrà cielo coperto e precipitazioni sparse, in genere moderate, con neve fino a fondovalle e forse anche sul Carso. Soffierà bora sulla costa. Ad un certo miglioramento, che ci si può attendere giovedì e venerdì, caratterizzato però da temperature più basse, con gelate notturne, probabilmente anche in pianura, potrebbe seguire l'arrivo di altri fronti verso il fine settimana, la cui entità e probabilità è ancora da definire. Vi invitiamo quindi a seguire gli aggiornamenti a cura di Osmer ARPA sulla RAI regionale, su internet, sulla telefonia mobile e sui vari social media. Alla prossima! Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano: di Zenaral va bene ogni rovedal, ovvero a gennaio va bene ogni sterpo spinoso pur di bruciare qualcosa per riscaldarsi. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it, potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima, non dimenticando per tutti gli auguri di buon proseguimento 2021. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.